Impariamo cosa sono e come si utilizzano le funzioni. Le funzioni sono sottoprogrammi che a partire da uno o più valori presi in ingresso restituiscono un valore al programma chiamante. Vediamo un esempio di funzione che chiameremo cubo. Nella parte evidenziata in verde viene dichiarata la funzione cubo, in quella gialla viene chiamata la funzione all'interno del programma principale. L'invocazione di una funzione consiste nell'assegnazione a una variabile, in questo caso b, come vediamo evidenziato nel paragrafo giallo, della funzione cubo, seguita dalla variabile che verrà sostituita al parametro precedentemente dichiarato. La dichiarazione della funzione è necessario che sia eseguita prima dell'apertura del programma principale. Per dichiarare una funzione è necessario inserire, dopo l'istruzione function, il nome che si desidera dare alla funzione, seguito, tra parentesi, dai parametri che verranno utilizzati all'interno della funzione e dai rispettivi tipi. Successivamente verrà inserito il tipo del risultato che verrà dato da questa funzione. Infine, verrà aperto questo sottoprogramma, all'interno del quale verranno inseriti i comandi per lo svolgimento della funzione da noi desiderata. Questo sottoprogramma poi verrà chiuso e successivamente si potrà iniziare la scrittura del programma principale, all'interno del quale verrà immessa l'invocazione alla funzione appena dichiarata.